This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Degli Erode per Ulrike Meinhof. Certa gente non ama ricordare, molta gente non vuole capire, certe cose non si devono pensare, molte cose non si possono dire. Abbiamo pensato di dedicare la prima parte della trasmissione alla giornata del 27, che sarà fra poco, ed è la giornata della memoria. Però in un modo un po' diverso. Per esempio, ieri, come tutti gli anni, ho sentito al TG che ministri, ministre, istituzioni varie, studenti di scuole superiori, sono andati in visita ad Auschwitz per non dimenticare. Lodevole, solo che hanno una memoria selettiva e dimenticano tante altre cose. All'epoca dello sbarco di Cristoforo Colombo nel 1492, l'America contava circa 80 milioni di abitanti su una popolazione mondiale di circa 400 milioni. 50 anni dopo, di native e nativi ne erano rimasti appena 10 milioni, cioè il 12,5%. Il genocidio degli indiani d'America, per certi versi ancora in corso, si accompagnò al saccheggio sistematico delle ricchezze e al furto a mano armata delle terre. Ed ebbe inizio la tratta transatlantica degli delle schiavi, schiave, neri e nere, cioè dello schiavismo. Questo crimine contro l'umanità, giustificato e motivato con ragioni economiche, sociali, culturali, ha lasciato nella coscienza collettiva occidentale la traccia profonda di un razzismo storico ancora radicato. Le guerre coloniali e quelle odierne, neocoloniali, sono la conferma che quel crimine contro l'umanità non è stato un incidente della storia, non solo, ma che l'armamentario simbolico e semantico è sempre lo stesso e che pertanto attraverso queste guerre si rinnova e si alimenta il razzismo. Ieri portavamo la civiltà, oggi la democrazia. Un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuando volverá? Je ne reviendrai pas. ¿Cuándo volverá? Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverá? Un día o jamás. ¿Y cuando volverá? Rosa Amelia Uribe nel libro Férosité Blanche parla sempre di questo genocidio messo in atto nei confronti degli indiani d'America e dice in particolar modo: quello stesso meccanismo di cui erano state vittime gli ebrei era in atto da secoli, in particolare nei confronti degli indiani e delle indiane d'America e degli africani e delle africane. E citando invece Aimé Césaire nel libro Discorso sul colonialismo e in un altro libro La cancrena, riportiamo insomma un'altra citazione appunto riguardo quello di cui stiamo parlando. Ciò che il borghese del XX secolo, tanto distinto, tanto umanista e tanto cristiano, non riesce a perdonare a Hitler non è il crimine in sé, l'umiliazione dell'uomo in sé, ma il crimine contro l'uomo bianco, il fatto di aver applicato all'Europa procedimenti colonialisti riservati fino a quel momento agli arabi d'Algeria. Sempre appunto un'altra citazione di Aimé Césaire in cui ci dice: sarebbe necessario studiare innanzitutto in che modo la colonizzazione opera per privare della sua civiltà il colonizzatore, una regressione universale che si attua, una cancrena che si insidia, un focolaio di infezione che si estende sempre più. Like I'm forced to break the silence. Is that a crime? Is that a crime? I feel like we're all following shadows, and shadows that don't know where to go. Infatti, sempre prendendo spunto da quello che ha detto Aimé Césaire, la partecipazione, per esempio, alle guerre umanitarie, quelle che adesso si chiamano guerre umanitarie, che sono guerre neocoloniali, struttura gli uomini e le donne che vi concorrono, che concorrono anche in senso lato, non direttamente, ma che fanno parte delle popolazioni che partecipano a queste guerre neocoloniali. Perché la popolazione che è del paese aggressore, in effetti, deve giustificare l'aggressione sentendosi portatrice di democrazia, portatrice di cultura, portatrice di valori positivi, di difesa e di tutela dei diritti umani. Questo che cosa significa poi? Che per trascinamento ne deriva un giudizio negativo nei confronti di quelle popolazioni che non sono in grado di gestirsi, che non sono in grado di tutelare i diritti umani, che non sono in grado di fare delle risorse del loro paese qualcosa di positivo. Però allo stesso tempo trascina nel giudizio negativo anche tutti quelli che nel nostro paese, cioè nel paese occidentale, non sono in grado di partecipare alla vita, non sono poveri, non sono stati in grado di strutturarsi nel lavoro in maniera adeguata, tutti quelli che non ce l'hanno fatta, quindi con un razzismo di ritorno anche nei riguardi delle popolazioni occidentali. I feel like we're not angry enough. E infatti quando si parla dell'Olocausto ci si dimentica sempre, per esempio, dei Rom, no? Tanto è vero che il genocidio dei Rom Sinti ha un nome che, mi scuserete se io non lo so pronunciare bene, si chiama Porraimos, e che loro commemorano tutti gli anni proprio in ricordo di tutti quelli che sono morti nei campi di concentramento nazisti. In Europa, per esempio, prendiamo questi dati da un articolo di un compagno, Christian Picucci, che si occupa dei Rom. In Europa i Rom sono 12 milioni su una popolazione complessiva di quasi 740 milioni di abitanti, quindi l'1,6%, la più numerosa minoranza oltre che la più discriminata. In termini assoluti è il gruppo più perseguitato della storia. Basti pensare alla schiavitù dei Rom in Romania, terminata solo poco prima del 1900, o alla recente sterilizzazione delle donne Rom praticata nella Repubblica Ceca, o al genocidio di almeno 500.000 Rom provocato dal nazifascismo. E infatti questo si dimentica sempre, si dimentica volutamente, ed anzi non solo, ma sono perseguitati ancora oggi. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è costretta ad abbandonare per mancanza di fondi il programma di sostegno ai Rom dell'Europa centrale e orientale sopravvissuti all'Olocausto. Sono 145.000 persone anziane che sono destinate a morire letteralmente di fame e di freddo perché private del sussidio, poi un sussidio, 120 dollari al mese, di cui hanno usufruito finora a titolo di riparazione per quanto hanno sofferto 70 anni fa. Riportiamo dalla dichiarazione proprio dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che dice: la caduta del comunismo e l'abbandono dello Stato sociale che garantiva il lavoro, l'alloggio, il riscaldamento e l'assistenza sanitaria hanno colpito i Rom con estrema durezza in un'epoca che vede riemergere le discriminazioni, le ostilità e le violenze nei loro confronti. Quindi ogni volta che ci sarà la giornata della memoria, ricordarsi di quello che è successo è lodevole, però non si può avere una memoria selettiva e dimenticare tante altre cose. I feel like I'm living after time. I feel like I'm forced to break the silence. Is that a crime? Is that a crime? I feel like we're all following shadows, and shadows that don't know where to go. I feel like I'm waiting for tomorrow, while today wastes away. It's not that I don't know, it's not that I can't see, it's not like it's just the way I feel. It's just the way I feel. feel like a child without a father. And mama tries, oh Lord knows mama tries. I feel like the world is on my shoulder. I wonder why, wonder why. I feel like I'm not the only one who's frustrated. I feel that something's going wrong, I can't escape it. I feel that the destinies of those are meant to be the best are in the hands of liars. Now the world is on fire. It's not that I don't know, it's not that I can see, it's not that I haven't noticed. It's driving me insane. It's not that I don't know, it's not that I can see, it's just I feel, I feel like we're not angry enough. That while we wait, time's ticking away. I feel there's gonna be an explosion. It's not that I don't know, it's not that I can't see, it's not like I have noticed, it's driving me insane. It's not that I don't know, it's not that I can see, it's just the way I feel, it's just the way. Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Ladri di bambini e bambine. Un adolescente calabrese, figlio di un presunto boss dell''Ndrangheta, è stato tolto alla famiglia d'origine dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. ed affidato ad una comunità per minorenni. Prima ancora che escano le motivazioni, le stesse sono già state esplicitate dalla questura reggina. Dice quest'ultima: nessuna affettività nella decisione dei giudici, ma un'alternativa culturale, e tenetevi forte, una misura per arginare in via preventiva il fenomeno mafioso. Senza parole. La polizia segnala, la magistratura sentenzia, quali sono i valori culturali validi e gli ambienti in cui si cresce in maniera sana ed equilibrata. C'era già stato il precedente di quel minore, simpatizzante di Rifondazione Comunista, che era stato sottratto per questo motivo da un tribunale siciliano alla madre su richiesta del padre. Oggi vale per Rifondazione Comunista e per l'Andrangheta, ma la strada è aperta a tutte e a tutti quelle e quelli che a vario titolo verranno etichettati negativamente. Naturalmente femministe, lesbiche, comuniste e viandare sono ad alto rischio. Già oggi le cifre dei bambini e delle bambine strappati alle famiglie rom è altissima, tanto da portare le donne a non denunciare situazioni di violenza. E le donne detenute hanno di fatto come pena accessoria la sottrazione dei figli. La polizia deborda dei compiti istituzionali ed infligge per via amministrativa il DASPO ai tifosi ed è l'unica autorizzata a interrompere un avvenimento sportivo, decisione sottratta ai giudici di gara e delegata al funzionario responsabile di PS. Si è introdotto il principio che qualcuno e qualcuna si arroghi il diritto di decidere per noi quello che è bene e quello che è buono, con criteri che hanno la pretesa di essere universali ed assoluti. Una violenza, questa sì, che fa impallidire la cultura dell'ipse dixit. Siamo in pieno inquietante delirio di onnipotenza. Si interviene in maniera preventiva, violando spirito e sostanza della legge che deve essere applicata sempre a fatti accaduti. È il trascinamento dallo stato di diritto allo stato etico, in piena cultura nazista. Naturalmente i primi destinatari sono i poveri e le povere, perché guarda caso il loro status è sempre foriero di comportamenti etichettati come illegali. Il patto sociale che si reggeva sulla divisione dei poteri e sul ruolo di servizio delle istituzioni tutte, compresa la polizia, è saltato. La prepotenza delle istituzioni è l'unica legge, con buona pace delle prefiche della non violenza e delle legali e delle vestali della legalità a prescindere. Ciao! You on earth. Nella seconda parte della trasmissione volevamo affrontare due temi che riguardano il lavoro. Il primo è lavoro e sessismo e il secondo lavoro e produttività. Parlando di lavoro e sessismo viene scontato dire va bene, il sessismo sul posto di lavoro, il sessismo nel lavoro sono gli atteggiamenti che possono avere i maschi di qualsiasi tipo essi siano, oppure atteggiamenti maschilisti nei riguardi delle donne o del lavoro delle donne. E invece vogliamo aprire uno scenario diverso con una notizia che ci ha particolarmente colpite. Sì, allora la notizia è di qualche settimana fa, però comunque ci sembrava importante commentarla. E dall'Espresso Online riguarda una protesta da parte di alcune lavoratrici di Mediaset che rischiano di essere trasferite da Roma a Milano, e questo naturalmente comporterebbe un cambiamento e una difficoltà tale che naturalmente sono indotte al licenziamento. E fino a qui, insomma, nulla di, cioè, nel senso, cosa grave, e importante il fatto che comunque ci sia una risposta a questa azione da parte dell'azienda. Purtroppo però la risposta è stata una risposta non adeguata. Infatti queste lavoratrici, parliamo di lavoratrici perché in maggioranza comunque sono donne, e hanno esposto uno striscione nel loro presidio in cui dicevano, ripeto insomma testualmente quello che era scritto nello striscione: mamme licenziate, mignotte assunte. E a questo punto si aprono scenari di atteggiamenti sessisti molto pesanti. Perché? Perché chiaramente è una dichiarazione di un giudizio molto grave, una divisione all'interno del mondo delle donne fra donne per bene e donne per male, fra sante e puttane, quelle che una volta, quella divisione che il femminismo ha combattuto per tanti anni e che pensavamo proprio di non vedere più. A questo punto però abbiamo fatto un minimo di analisi, perché anche uno striscione del genere pensavamo di non vederlo più. Come mai delle donne sono riuscite a scrivere mamme licenziate, mignotte assunte? Prima di tutto, già mamme licenziate significa essere completamente inserite in un ruolo, dare più importanza alla figura materna che non a quella di donna, o comunque a quella di qualsiasi altro ruolo anche all'interno del lavoro. Quindi non si tratta di una donna licenziata, non si tratta di una lavoratrice licenziata, non si tratta di una professionista licenziata, si tratta di una mamma licenziata. Sì, che quindi già il fatto di ricoprire questo ruolo dà di per sé un diritto maggiore a lavorare, e appunto il diritto a lavorare quindi viene collegato al ruolo classico di donna di famiglia. È anche, ecco, un po' più vittimizzante come cosa, no? Chiaramente, cioè, la madre quindi ha i figli a carico, fa già un lavoro di cura, cioè comunque, no? Poi ci stanno tutte delle pubblicità, Mulino Bianco, no? La mamma che fa i biscotti, ormai c'è questo ritorno casalingo, no? Sono tutti quanti grandi famiglie, e quindi, cioè, chiaramente anche, voglio dire, striscioni visti in giro, casini per i deboli e le famiglie, insomma, quindi la famiglia ormai viene proprio buttata lì ovunque, e quindi chiaramente in questo contesto di riproposizione, che io voglio solo dire che appunto abbiamo visto anche in movimenti antagonisti che comunque, cioè, hanno fatto anche insomma delle lotte abbastanza dure, no? Cioè le mamme vulcaniche, no? Hanno fatto anche le magliettine, insomma, e comunque cioè, riguardo alla lotta a Terzigno, insomma, riguardo alla discarica si voleva fare a Terzigno, e quindi anche lì, cioè, nonostante ci fosse una lotta che fosse neanche in quel caso diretta verso le singole persone, quindi verso le individualità che in quel caso erano donne, ma c'erano anche chiaramente uomini, bambini, eccetera. E nonostante questo, comunque hanno deciso di andare lì in quanto madri e non in quanto, anche forse fosse stata napoletane, già sarebbe stato, come dicevi tu, meno all'interno di questi stereotipi, no? E questi ruoli. E poi Mignotte assunte chiaramente apre tutto il giudizio su quelle che portano via le donne per male, che portano via il lavoro alle donne per bene, che usano le arti malefiche secondo tradizione, quindi si fanno assumere, usano il proprio corpo e compagnia bella. Ci rubano mariti e lavoro. rubano mariti e lavoro. Finora erano state etichettate così soltanto quelle dell'est, le donne dell'est, ruba mariti e ruba lavoro. Adesso è stato allargato anche alle nostrane. Sì, sembra che si ritrovi, diciamo, un'unità nel proteggere però la propria integrità morale, e mentre naturalmente poi scagliandoci, diciamo, contro le veline, le escort, in realtà quello che viene fatto è che viene spostato vengono ignorate le problematiche reali che creano diseguaglianza e sfruttamento. E diciamo che poi c'è un siccome abbiamo cercato di, cioè cercato, abbiamo indagato quelle che sono le cause un attimo di tutto questo, al di là del ritorno prepotente agli anni 50 che il neoliberismo sta attuando, e quindi alla riproposizione dei ruoli, al ricollocamento delle donne nel ruolo materno, familiare e di cura. C'è una grossa responsabilità da parte di quello che possiamo definire un femminismo socialdemocratico pseudo para istituzionale, che da tanto tempo ha usato il meccanismo e sta usando, cioè adesso diciamo non ne ha più motivo, perché questo meccanismo in pratica è iniziato in maniera anti Berlusconi, in maniera funzionale contro Berlusconi, diciamo che è cominciato da parte, facendosi strumentalizzare da parte di tutta un'area di donne del PD, annessi, connessi e collaterali, che in funzione anti-Berlusconi ha cominciato a dare giudizi di merito sulle escort, le veline, l'uso del corpo delle donne, dividendo appunto le donne fra sante e puttane e facendo una riproposizione molto forte del giudizio fra le donne per bene, delle donne per bene sulle donne per male. E questo è andato avanti per molto tempo e ha innescato dei meccanismi di regressione molto forti, quindi una responsabilità in questo senso di aver influito sul comune sentire nei riguardi del giudizio sulle donne e su tutto quello che rappresenta la morale corrente, che è una responsabilità che questi settori del femminismo si devono assumere. E non stiamo parlando soltanto di quello che è di quelli che sono i movimenti femminili para femminili, chiamiamoli femminili para istituzionali, come possono essere neoliberisti di spirito neoliberista e riformista, come può essere se non ora quando. Questo tipo di discorso ha travalicato questo tipo di associazionismo femminile per invadere, e anzi addirittura è stato portato avanti per primo dal femminismo socialdemocratico, chiamiamolo di area sinistra riformista. Quest'altra notizia invece, che riguarda sempre lavoro e sessismo, dice: troppo bella per lavorare, i giudici contro Melissa, licenziata dal suo datore di lavoro perché irresistibile, sentenza shock di una corte di soli uomini in Iowa, negli Stati Uniti. Scusate, mi hanno detto Iowa, che avevo pronunciato molto male, quindi sentenza shock di una corte di soli uomini in Iowa. Allora, quindi diciamo, riassumendo un po' che succede, questa Melissa Nelson, questa Melissa Nelson è questa donna che ha iniziato a lavorare come assistente in uno studio dentistico di tale, insomma, James, non so, James Knight. E niente, ho iniziato a lavorare in questo studio e a un certo punto però, perché essendo una bella donna, insomma, a quanto si legge da questo articolo, un bel giorno, diciamo che questo, il dentista quindi dello studio ha deciso di licenziarla, perché dicendogli che era troppo bella e che negli ultimi mesi vestiva con abitini stretti che era impossibile non notare. E quindi, insomma, questa è stata la causa del licenziamento di questa donna, che comunque, insomma, ha 32 anni, quindi a parte tutto, insomma, dice, era il primo stipendio fisso che aveva e quindi, insomma, tenta a rientrare sempre, se parliamo di lavoro. E niente, quello che c'è scritto qui è che questa cosa era successa nel 2010, dopodiché, appunto, Melissa aveva fatto ricorso. E, a questa è una notizia di qualche settimana fa, insomma, ormai sarà passato un mesetto, ma la corte ha invece detto che quel licenziamento era giusto e ha deciso, quel licenziamento infatti era legale, e c'è scritto da parte del Daily Mail, uno degli avvocati ha scritto: questa decisione è una vittoria per i valori della famiglia, poiché la signora Nelson è stata licenziata per salvare un matrimonio, non perché era una donna. It's a fear, real danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. I'll find my way, 'cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, 'cause you don't. E praticamente siamo ancora al 1500, quando si bruciavano le streghe per salvare i valori della famiglia, perché le streghe erano scostumate, portavano alla perdizione gli uomini, cioè è sempre la donna che porta alla perdizione qualcuno, è sempre la donna che è un oggetto di perdizione per il maschio, di tentazione, ed è sempre la donna che porta fuori dai binari della normalità e della morale gli esseri umani, cioè dalla mela, poi alle streghe e poi alla Melissa dello Iowa. Iowa. Sì. Sì, quello che viene detto infatti dall'avvocato, insomma, di questa Melissa è infatti è come se i giudici dicessero alle donne dell'Iowa: non pensiamo che gli uomini possano essere responsabili dei loro desideri sessuali, sono le donne dell'Iowa a dover controllare gli impulsi sessuali dei loro capi, e se i capi si lasciano sfuggire di mano la situazione, le donne possono essere licenziate legalmente. But I'm strong, I know how to stay out, and I'll find my way, 'cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, and yeah, oh, whoa, whoa. So won't you just give it up, 'cause you don't understand, make it up, but you don't understand. Don't understand. Allora, adesso invece volevamo parlarvi di un lavoro e produttività prendendo spunto da un articolo che abbiamo letto su, sempre su internet, su InfoOut, che parla di lavoro e di morire di lavoro in Giappone. E nell'articolo infatti si spiega come nelle principali città del Giappone una grande quantità di persone ha un rapporto distruttivo, dice l'articolo, con il lavoro e decidono di uccidersi, tanto che è stato dato anche un termine a questo fenomeno sociale e questo termine è karoshi. E il termine indica appunto la morte dei lavoratori di grandi aziende, per lo più per suicidi, ma anche per infarti dovuto al sovraccarico di lavoro e quindi alla fatica e al prolungamento dell'orario lavorativo. Nell'articolo poi appunto si fa riferimento anche agli interinali, che costituiscono sempre di più in Giappone costituiscono circa un terzo della forza di lavoro giapponese e questo naturalmente lì come qui significa meno paga, meno tutele e quindi anche lì l'impiego fisso sembra una cosa del passato. E abbiamo preso appunto spunto da questo articolo perché naturalmente in Giappone quindi i ritmi di lavoro lunghissimi e quindi l'incertezza di cui parlavamo hanno prodotto questo aumento dei suicidi negli ultimi anni. Questo perché anche le persone sono sempre più isolate e private quindi della possibilità di esercitare un conflitto reale verso l'esterno, verso l'azienda, riversano questa rabbia nei loro confronti e quindi ci sembrava importante sottolineare come questo tipo di dinamica è naturalmente distruttiva. La rabbia quindi che invece di essere condivisa collettivamente viene scaricata quindi verso se stessi e non verso coloro che ci costringono a vivere in determinate condizioni. Un attimo per inciso, volevo fare una comunicazione che la trasmissione che avrebbe dovuto esserci adesso alle 21 prove tecniche di trasmissione non ci sarà perché il redattore che se ne occupa non sta bene, quindi non verrà e ci sarà la prossima settimana. Questo perché così noi in ogni caso andiamo avanti con la trasmissione nostra. Sì, appunto, dicevamo, sempre tornando all'articolo sul Giappone, che naturalmente questo tipo di dinamica probabilmente è anche il frutto di tradizioni culturali anche molto diverse dalle nostre, che però a loro volta tradizioni che derivano comunque da condizioni politiche, economiche di un certo tipo. Al di là di questa cosa, comunque, anche se in maniera diversa, negli ultimi 30 anni in Italia è diminuita fortemente la conflittualità ed è aumentato viceversa l'isolamento che ogni singolo lavoratore, lavoratrice si vive sul proprio posto di lavoro. Me, diciamo che mi ha colpito molto l'incipit di questo articolo. Perché dice: di recente sono stato a Bruxelles e in un ostello ho incontrato dei giapponesi in vacanza. Quanto ho sentito Sayaka, la mia nuova amica giapponese, rispondere sommessamente al telefono alle 4 di mattina e scivolare fuori dal suo letto per dirigersi nella sala computer al piano inferiore, mi sono incuriosito. Era una talpa che teneva sotto controllo gli ospiti per conto dei proprietari? Forse contattava i suoi genitori a tarda notte perché non si sentiva a suo agio usando internet alla luce del giorno? Niente di tutto questo. Come poi ho scoperto, quella era l'unica vacanza che Sayaka si fosse presa in tutto l'anno e le puntatine mattiniere alla sala computer servivano a finire un lavoro urgente per il suo capo. In poche parole, un modo abbastanza schifoso di trascorrere le vacanze, ma di sicuro è meglio delle 16 ore al giorno di lavoro che l'attendono al rientro a casa. Allora, questo incipit a me ha fatto venire in mente una cosa che è abbastanza passata, ma allo stesso tempo mai abbastanza detta, che è quella della trasformazione del modo di affrontare il lavoro con quella che viene chiamata la femminilizzazione del lavoro, che ha praticamente introdotto e incentivato il neoliberismo. In pratica, quella che era la caratteristica del lavoro di cura femminile, e cioè il fatto che non ci fosse differenza fra momento del lavoro e momento del riposo, fossero un qualcosa di indistinto, ci fosse dedizione assoluta nei confronti dell'oggetto della cura, e in questo caso dell'azienda, che si fosse compartecipi anche affettivamente dei destini dell'azienda e che si fosse disponibili a qualsiasi tipo di richiesta e alla soddisfazione di qualsiasi tipo di imprevisto in qualsiasi momento, in qualsiasi attimo della propria esistenza. Questa che è la femminilizzazione del lavoro, è stata trascinata in tutti gli attimi del lavoro, che è diventato lavoro ed esistenza, e quindi questo fenomeno, che in Giappone è così esaltato, però non è altro che quello che si sta radicando anche qui da noi, e che chiaramente il Giappone sta già subendo a uno stadio molto più elevato e molto più avanzato. Say it's over after all. They won't have to face the justice of the chair. Just before they serve up one last meal, shave her hair, they ask her how she feels. Then the warden comes to say goodbye. Reporters gone to watch him die. Watch him as he's strapped into the chair. And the chaplain, he reads the final prayer. Be brave, my daughter. The Lord is waiting there. Oh, murder is so wrong, you see. Both the Bible and the courts agree that the state's allowed to murder in the chair. In the courtroom, watch the balance of the scales. If the price is right, there's time for more appeal. State. The finest lawyers' fees are paid, and a rich man never died upon the chair. Have you seen the Iron Lady's child? Lay the steel leather on her arms, taking all the men to die. For a life, an eye for an eye. And that's the Iron Lady in the chair. Sempre riferendoci all'articolo appunto sul lavoro in Giappone, e a un certo punto nell'articolo si dice appunto che il problema è il circolo vizioso in cui si entra, cioè si vive in periferia, il tragitto per arrivare al lavoro è lungo, ci si sposta in treni affollati, si arriva in ufficio stanchi, vai a casa con lo stesso treno, il tempo di dormire e devi di nuovo tornare a lavorare, anzi addirittura se non lavori abbastanza e non hai l'aspetto di chi lavora abbastanza, sei anche giudicato non solo dal padrone ma anche dai colleghi. e ci hanno inoltre spinto sempre di più, per tornare anche a quello che diceva Elisabetta sulla femminilizzazione del lavoro, a pensare che la nostra soddisfazione quindi è legata alle gratifiche che noi riceviamo sul posto di lavoro. C'è un'abitudine infatti delle donne a percepire come significativo, come gratificante per la propria persona il lavoro di cura che le donne sono abituate a fare, e quindi questo tipo di percezione è stata poi trasportata, come dicevamo, anche nel lavoro e anche quasi affettivamente, se troviamo una gratificazione, se il nostro lavoro va bene, se riceviamo dei complimenti per il tipo di funzione insomma che abbiamo. E mentre diciamo che le cose andrebbero riportate nella loro reale natura, che qual è? Lo scambio del nostro tempo, delle nostre capacità in cambio di soldi, cioè questo è il lavoro, e nella stragrande maggioranza dei casi questo rapporto scambio tempo e fatica per soldi è un rapporto che avviene uno scarto molto, molto grande, nel senso che quello che percepiamo è una minima parte della ricchezza reale che produciamo. E questo avviene naturalmente, questo senso di soddisfazione probabilmente avviene in maniera maggiore in lavori cosiddetti più intellettuali, probabilmente quando si fa un lavoro più fisico e quindi c'è una stanchezza maggiore dal punto di vista fisico, probabilmente è più immediato quello, un rifiuto di questa condizione e quindi viene percepita magari maggiormente la durezza del lavoro e diciamo che probabilmente la durezza del lavoro rende più evidente e stridente la possibilità che invece in altri casi si vuole dare alla propria prestazione lavorativa. Questo per dire che invece però il lavoro è sfruttamento e sottrazione del proprio tempo, però in tutti i casi, non solo per l'operaio ma anche per il cosiddetto lavoratore cognitivo. Il rifiuto del lavoro quindi deve essere un orizzonte secondo noi comune e per tutti, proprio per mettere in crisi quella che è la base su cui si fonda il capitalismo, cioè l'assimilare la vita al lavoro e alle regole del capitale. E il lavoro salariato quindi rappresenta uno sfruttamento che quindi ruba tempo e spazio alla nostra vita, e qualsiasi rivendicazione quindi che avviene sui posti di lavoro deve avere sempre appunto come orizzonte il rifiuto del lavoro. Safely in, touch me with your naked hand. me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of A proposito di quello che è stato appena detto, insomma, riguardo al lavoro, alla femminilizzazione, per così dire, del lavoro, volevo dire che proprio, diciamo, l'accordo sulla produttività, insomma, che poi è entrato a vigore, aveva la fine dell'anno, no? Cioè, quindi al 31 c'era... voglio dire, ci sta anche tutto un capitolo, insomma, dedicato proprio alla... partecipazione dei lavoratori, e infatti viene, diciamo, favorita la cultura della partecipazione e della collaborazione fra imprese e lavoratori. C'è scritto che questa cultura della collaborazione fra imprese e lavoratori è favorita anche dal ruolo che possono svolgere, anche qua dice, gli enti bilaterali di matrice contrattuale per la diffusione di modelli partecipativi. E questo per dire che, quindi, insomma, questo con dei, diciamo, dei qua dice di matrice contrattuale, chiaramente, perché viene proprio promossa, cioè una vera e propria cultura dell'impresa, perché infatti in realtà questa collaborazione non si basa su nient'altro che non su, diciamo, delle relazioni, qua dice, industriali moderne, quindi un modello di relazione moderno che sia attento agli obiettivi generali dell'economia, orientato alla competitività delle imprese, allo sviluppo coeso dei territori e eccetera eccetera. Quindi, voglio dire, chiaramente orientato alla competitività delle imprese, chiaramente, insomma, è chiaro che quindi, insomma, la relazione deve essere basata su quelle sono le esigenze del mercato. E quindi, insomma, questa cultura di impresa viene riproposta e accentuata anche da questo accordo, in cui c'è anche proprio una parte invece dedicata alla formazione, che anche deve essere, appunto, approntata proprio all'idea di mercato, già, insomma, all'interno della scuola, quindi ci deve essere quest'idea, e c'è proprio, quindi, anche qui tutto un capitolo che riguarda, del resto è un accordo sulla produttività, quindi ci si potrebbe interrogare su che cos'è la produttività, insomma. Perché teoricamente è il lavoratore, no? Che produce, ma poi, insomma, purtroppo, come sappiamo, il capitale aliena il lavoratore dal suo prodotto, e quindi, insomma, poi quello che succede è che è l'impresa che, insomma, ha la meglio. Alla luce di tutto quello che ci siamo dette, è tanto più stridente quello che ci propongono, allora. Perché, per esempio, ci dicono che è importantissima la questione femminile sul lavoro, che servono riforme, un cambio di mentalità per far entrare le donne nel mondo del lavoro. Ma come le vogliono far entrare? Come ci vogliono far entrare? Come ci vogliono nel mondo del lavoro? Come ci vogliono far entrare nel mondo del lavoro? E poi siamo proprio sicure che ci interessi entrare in questo mondo del lavoro? ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. Oh, chiaramente il discorso, quando una dice siamo proprio sicure che una voglia entrare nel mondo del lavoro, questo tipo di discorso vale quanto quello dell'emancipazione. Sì. Cioè non è che l'emancipazione ci fa schifo, nel senso che l'emancipazione ha dei vantaggi e l'indipendenza economica è necessaria per potersi liberare da tutta una serie di vincoli patriarcali. Ciò non toglie che dobbiamo avere ben chiara anche la strumentalizzazione che fanno di noi nel mondo del lavoro, perché il lavoro femminile e le esigenze delle donne di un'indipendenza economica vengono strumentalizzate e molto bene. Sì, diciamo che come appunto diceva Elisabetta, la domanda di emancipazione delle donne ha portato anche come risultato anche l'ingresso comunque delle donne nel mondo del lavoro. In qualche modo la funzione svolta dalle donne all'interno del lavoro è in qualche modo quella che viene svolta dagli immigrati, che sono costretti ad adattarsi alle esigenze del mercato e che quindi il mercato utilizza riducendo i salari, cancellando le regole basilari, insomma, del diritto del lavoro, precarizzando, comunque guadagnano meno, sono molto più ricattabili. Una per tutte è questo nuovo discorso delle ragazze madri che vengono assunte adesso, cosa prima erano delle reprobe e non venivano accettate da nessuno, adesso vengono assunte perché sono ricattabili. Non è vero che vengono assunte perché la nostra società è diventata tanto buona e tollerante, ma perché sono particolarmente ricattabili. E quindi naturalmente fa più comodo a un datore di lavoro, come altrettanto comoda per un datore di lavoro assumere delle donne part-time. Perché anche il part-time sembra una conquista delle donne. In realtà, da un punto di vista diciamo di ruolo, riproduce quello che è il ruolo classico, nel senso che si dà la possibilità alla donna di lavorare fuori casa meno per poi ricoprire lo stesso ruolo che ha sempre avuto anche in casa, quindi di continuare il doppio lavoro. Che quindi non viene realmente condiviso con la componente maschile. E oltretutto rende di più all'azienda, perché è vero che la lavoratrice part-time guadagna un pochino meno, lavora un pochino meno, però lavora meno ore ma più intensamente, quindi il lavoro effettivo che viene fatto è di più, quindi è più conveniente sicuramente per l'azienda. Una chicca a questo proposito del lavoro di cura condiviso, una chicca della bozza in avanzato stato di elaborazione proposta da Monti. Tremate, tremate, ma non sono tornate le streghe, qui è tornato. Allora, riguarda gli incentivi per il lavoro femminile. Il progetto di scelta civica, in linea con la decisione simbolica già adottata dal governo Monti del giorno di obbligo parentale paterno, cioè il giorno di obbligo in cui il padre può prendere per i figli, praticamente introduce una serie di meccanismi per rendere economicamente conveniente che padre e madre di un neonato si assentino dal lavoro per un periodo molto simile ed equilibrato fra loro. Come? Incentivando il congedo paterno e favorendo, grazie alla leva fiscale, i casi in cui uomo e donna condividono in modo equo la condivisione. Cioè fanno degli sconti fiscali se la condivisione dei congedi parentali è presa in maniera equa. Cioè io penso che farsi prendere per i fondelli abbia un limite, ecco. Anche perché anche qui, insomma, cioè, giusto rispetto, cioè, a quello che dicevamo prima, anche qui l'unica tutela che viene data è comunque alla madre, famiglia in cui famiglia etero, sessuale chiaramente, in cui insomma entrambi i genitori di questo splendido bambino lavorino e quindi insomma ci sia questa tutela, perché una madre insomma non una mignotta come prima e quindi va tutelata un po', certo, meglio, perché per, cioè, che cazzo ce ne fregano le mignotte, quindi insomma no, e questa è la cultura che va passando, tanto è vero che abbraccia sia la destra classica, sia il centro, sia la sinistra socialdemocratica e riformista. Cioè non sono scelte che potrebbero sembrare appartenere ad una destra tradizionale. Essendo i valori neoliberisti, abbracciano tutto l'arco costituzionale. Comunicazioni importanti: il 24 gennaio, cioè domani, in Turchia ci sarà il processo a Pinar Selek, cioè la 12ª Corte Penale di Istanbul dovrà pronunciarsi sulla richiesta di 36 anni di carcere un'altra volta per Pinar Selek. Siccome la sua lotta è la lotta di tutte noi e la sua libertà è la nostra libertà, ricordiamoci che domani siamo tutte con lei. Who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America. Vi ricordiamo sempre che questa è I nomi delle cose, la trasmissione della Coordinamenta Femminista e Lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi diamo i nostri riferimenti. Allora, la nostra posta è coordinamenta@autistiche.org e il nostro blog è coordinamenta.noblogs.org. Ogni tanto andateci, andate a vedere le novità. Poi un'ultima notizia. Sì, volevo dire una penultima notizia. che il 31 gennaio ci sarà l'ultima sentenza, insomma, ci sarà del riguardo allo stupro dell'Aquila, e quindi ci sarà la sentenza appunto contro Francesco Tuccia, e precisamente il 31 alle 9 ci sarà quindi un presidio sotto al tribunale, e poiché si andrà a sentenza cerchiamo di essere in tanti e tante, soprattutto perché comunque insomma è un momento importante, e niente, insomma, quindi ricordiamo l'appuntamento, quindi il 31 alle 9 il presidio sotto al tribunale dell'Aquila. Che non hanno il genere. Allora, intanto cominciamo ad informarvi, poi allora ve lo ricorderemo anche mercoledì prossimo. Abbiamo organizzato una festa in maschera per Carnevale, sabato 2 febbraio, che sarà al nido, allo spazio sociale Nido di Vespe, al Quadraro. Dopo cena, dalle 9 in poi, ci sarà da bere, da mangiare dolci e insomma divertirci insieme. E è una festa in maschera, ha un tema appunto, che è deragliando dal genere, ovvero quelli e quelle che non hanno il genere ma hanno la classe. Diciamo che è il nostro primo appuntamento della coordinamenta verso l'8 marzo, perché abbiamo scelto una festa tema sui ruoli, sullo scardinamento dei ruoli. Dato che i ruoli sono determinanti nel ribadire, collocare, opprimere in qualsiasi ambito, e vengono strutturati e servono a codificare le gerarchie sia nel privato che nel sociale, abbiamo deciso di destrutturarli con una festa che ci sta sempre bene. Quindi Deriling Gender, deragliando del genere, frittelle, frappe, vino rosso, qualsiasi cosa ci venga in mente per vestirci, maschi da femmine, femmine da maschi, una miscela di tutte e due. Vi aspettiamo il 2 febbraio, sabato, al Nido di Vespe. Ciao! Ciao! Ciao. That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. If it is, you bet your life it is. Feel now all.